8 e 34 di lunedì 5 marzo 2005. E non so quanti di voi abbiano familiarità con la guida TV di Sky, sistema navigabile che con una certa fatica i decoder, i vecchi decoder Italtel riescono a caricare. Fatto sta che ha delle caratteristiche un po' particolari. Il fatto che si possa scorrere il titolo del programma che si sta seguendo prima ancora di riuscire a dare il tempo, diciamo così, al decoder di visualizzare le immagini. Quindi quello che accade è che vengano scorsi tutti i titoli e spesso anche le spiegazioni dei vari programmi, le trame dei film e così via, ma non si ha il tempo di vedere neanche un solo fotogramma della trasmissione. E quindi accade molto spesso che le nostre scelte avvengano proprio sulla base di queste brevi descrizioni, che non riescono ad arrivare neanche al cervello, a mio parere si fermano sulla mano che tocca il telecomando. Questo è forse uno dei motivi per cui tutte le volte che scorrendo i programmi mi sono imbattuto nel processo di Michael Jackson sono passato oltre. In Italia esisteva una volta su Rai 3 un programma a mio parere molto ben realizzato, Un giorno in pretura, che lontano dall'essere quella telegogna che qualcuno magari immaginava, in realtà ci dava uno spaccato abbastanza reale dello stato della giustizia in Italia, specialmente quando i processi appunto riguardavano reati comuni e fatti tutto sommato poca rilevanza. Poi chiaramente la legge dell'audience ha fatto sì che questa trasmissione dovesse seguire anche i grandi processi, come il caso Massarusso, per esempio. E negli Stati Uniti invece la questione ha preso una brutta deriva, ha preso veramente una brutta deriva, proprio perché a un certo punto l'azione lobbistica di alcuni mezzi di comunicazione volevano realizzare appunto la famosa telegogna, ha avuto successo ed è stato permesso alle telecamere di entrare nei tribunali ad alcune condizioni. Fino ad allora con grande, diciamo così, romanticismo, le illustrazioni di tutti i resoconti di quello che accadeva nelle varie corti erano affidate a dei bozzettisti che riuscivano a cogliere, perché non potevano entrare neanche le macchine fotografiche, riuscivano a cogliere le espressioni dei vari protagonisti, imputati e anche naturalmente avvocati, giudici. Insomma, a un certo punto le telecamere sono sbarcate e con una sospetta rapidità, quasi il giorno dopo l'approvazione di questa nuova regolamentazione, è apparsa una televisione che per 24 ore al giorno manda in onda i processi, che poi sono puntualmente i grandi processi, soprattutto alle star. Televisione che si chiama Court TV e che in Italia non avremmo nessun problema a definire appunto telegogna. Court TV non ha assolutamente mai ha avuto l'ambizione di dare uno spaccato della vita negli Stati Uniti, perché segue solo alcuni tipi di processi, quelli che solleticano la curiosità del pubblico, come è ovvio che accade, dato che il business model è quello della raccolta pubblicitaria, quindi gli inserzionisti si preoccupano solo del numero dei contatti, e quindi sono andati in diretta i processi a personaggi come O.J. Simpson, per intenderci, fino al caso di Michael Jackson. Però, come ho detto, esistono delle limitazioni all'uso delle telecamere, e quindi, da quello che mi pare di aver capito, fino a questo momento nessuna immagine reale del processo di Michael Jackson è andata in onda. E questo l'ho capito solo appunto quando l'altro giorno sfogliando la guida di Sky, mi sono fermato sul processo di Michael Jackson. Forse più per un errore del telecomando, ma è stato un errore fatale, perché poi mi sono reso conto che il processo era una ricostruzione affidata a degli attori. Cioè, in buona sostanza, quello che accade è questo: c'è un meccanismo di marketing, una televisione che si occupa di casi giudiziari vende un certo tipo di prodotto, in sostanza vuole sbattere un certo tipo di mostro in prima pagina. La parola mostro si presta a varie interpretazioni. In questo caso possiamo anche essere d'accordo che Michael Jackson sia un po' deturpato nell'aspetto, poi sul fatto in realtà che si tratti di un mostro anche dal punto di vista criminale, purtroppo mi sembra che siano state compiute accelerazioni un po' esagerate. Insomma, fatto sta che Court TV e tutte le varie consociate che hanno poi acquisito i diritti, Fox News naturalmente negli Stati Uniti si è subito avventata su Michael Jackson, e in Europa c'è anche Sky News che trasmette lo stesso avvenimento, in realtà non trasmettono un vero processo ma una ricostruzione, in buona sostanza degli attori che si impossessano degli atti del procedimento, li trasformano in un copione e poi li mettono in scena per una rappresentazione che è veramente a metà strada tra l'informazione, la fiction, perché no, il documentario in differita, non saprei come altro definirlo, è un nuovo format, anche se questa è una parola che non piace ad alcuni ascoltatori di questo podcast. Comunque, alla fine viene fuori veramente qualcosa di molto più mostruoso del mostro che si vorrebbe sbattere in prima pagina, perché è abbastanza ovvio, perché innanzitutto c'è un attore che interpreta Michael Jackson, ci sono degli attori che interpretano il giudice, gli avvocati, poi il fatto che queste persone imparino queste parti nel giro di poche ore per poi mandarle in onda pochissima distanza dall'evento reale è qualcosa di così sconvolgente dal punto di vista mediatico, perché sì, è vero, siamo abituati ai reality show, siamo abituati a tante cose, però c'è un patto sostanziale con il telespettatore che sa di essere comunque di fronte a qualcosa che non ha l'ambizione di informare. Mentre in questo caso siamo veramente al limite del raggiro e della manipolazione del telespettatore.